vero che Mario Balotelli a gennaio arriva alla Juve? Perché sinceramente a me da juventino, anche se me lo regalavano, non me lo prendevo. Da questo momento, lo dico quasi quasi credendoci, il Palermo vincerà lo scudetto. Volevo sollevare un attimo il livello del colloquio dopo aver sentito Cassano, perché veramente non si può sentire. Tutti convocati di Carlo Genta. Venite pure qua, venite! 60 milioni di euro ce li avete in tasca per comprarvi l'attaccante più forte al mondo! Se non ce l'avete, restate dove siete! E questo, tanto per cominciare, è un omaggio al mio amico Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore, che è qui con me in queste chiacchierate dei primi dell'anno di Tutti Convocati. Ciao Carlo. Ce li hai 60 milioni? Beh, mi sa che ce ne vorranno anche di più ora per prendere Cavani. Ma oggi è mia intenzione parlare in modo semiserio con due illustri giornalisti del Sole 24 Ore e sbertucciarli di fronte a tutta l'Italia, voi che leggete i loro imperdibili commenti seri su cose serie. Non c'è solo Marco Bellinazzo, ma anche Mauro Meazza, caporedattore del Sole e noto tifoso interista conclamato e dichiarato. Ciao Mauro. Ciao Carlo, buongiorno a tutti. Fino adesso hai detto tutte cose vere, quindi non c'è sbertucciamento ancora. Non c'è, ma vedrai che ci sarà. Mauro Meazza, caporedattore del Sole 24 Ore, nonché musicista. Il mio bancario è un consulente, lui mi risponde di domenica, risolve tutti i miei problemi senza neanche far la predica. Il mio bancario è il confidente di quasi tutti i miei segreti, mi amministra le sostanze senza tante formalità. Lui mette insieme derivati. Ecco, adesso questa ce la spieghi. Questo merita una spiegazione. Allora, quello che avete appena ascoltato è Il Consulente. Il Consulente è un brano di una band molto particolare, costituita, diciamo, come nucleo storico da giornalisti del Sole, giornalisti serissimi. Io sono stato smascherato pubblicamente ormai, degli altri due non farò i nomi. La band si chiama Chapter 11. Ma solo i cognomi? No, manterrò una omertà disgustosa per confermarti però che è una band molto particolare, perché si esibisce solitamente per fini no profit, cioè noi andiamo un po' in giro, abbiamo questo genere molto particolare che definiamo pop economico tributario e appunto componiamo questi brani, come avevi sentito appunto l'accenno del Consulente, dedicati a tematiche finanziarie, giuslavoristiche, sì, fiscali e quant'altro, e quindi mettiamo un po' in ridere cose molto serie, quelle cose serie di cui tu dici scriviamo, ci occupiamo tutti i giorni. Ecco, ci piace farlo a volte in musica, andiamo in giro e di solito lo facciamo a fini benefici, cioè quando ci esibiamo poi pretendiamo che il nostro ingaggio sia devoluto in beneficenza. Siete come l'Inter, vi esibite in maniera no profit. No, non mi risulta, perché anzi se fosse così credo che il presidente che mi è più caro avrebbe meno problemi nel, come dire, rinforzare la rosa, rimpolpare la rosa. Invece mi pare, ma lo leggo dagli articoli di Marco Bellinazzo, che ci siano delle difficoltà per far quadrare i conti, sì, in previsione di questi fair play veri, presunti, minacciati. Arrivassero almeno i cinesi. Ecco, se arrivano i cinesi magari questo arrivano altro, anche dei soldi. Questo è un altro bel tema. Ma arrivano i cinesi, Marco? Beh, devo dire che già nacque male questa cosa qua. Una sera, forse lo ricordate, insomma, ci fu questo comunicato stampa da cui sembrava che l'affare fosse praticamente definito, addirittura con la China Corporation, quindi con una impresa multinazionale, globale, che dava ampia assicurazione per fare non uno ma 10 stati, volendo tutti quelli di cui l'Italia avrebbe bisogno. Subito dopo fu smentito questo comunicato, in realtà andando a leggere poi tra le righe, effettivamente si distingueva tra cinesi e China Corporation, cioè tra cinesi destinati a entrare nel capitale e China Corporation che invece doveva soltanto appunto dedicarsi all'impianto, al nuovo impianto dell'Inter. Perché ci sono cinesi e cinesi. Di solito noi li confondiamo i cinesi perché sembrano tutti uguali, ma questa è una battutaccia, in realtà in quel caso andavano distinti. Il problema è che da quel momento, cioè parliamo di luglio, agosto addirittura 2012, sono passati tanti mesi, sembrava che a fine novembre nell'assemblea dell'Inter dovessero finalmente apparire questi famosi cinesi, poi nuovi soci di Moratti, e in realtà poi ci hanno detto che ci sono delle difficoltà burocratiche a investire dalla Cina. Ecco, io ero noto, di solito scrivo anche di problemi burocratici in Italia, investire in Italia, ma che i cinesi avessero problemi ad investire dalla Cina con tutti gli investimenti che fanno in ogni parte del mondo, insomma... Sai, di solito loro arrivano con i sacchetti, con le buste della spesa e dentro i soldi e dicono mi date questo negozio, pam, l'investimento e mi sa che è più o meno così. È più complicato infatti, più che una questione di fisionomia dei cinesi, della popolazione cinese, ne farei una questione proprio di censo e di abbienza loro, cioè noi vorremmo distinguere tra i cinesi che... Ce li hanno quelli qui che con i soldi e quelli che no, almeno ai fini diciamo del popolo nerazzurro ci farebbe piacere sapere se sono arrivati questi cinesi muniti, affluenti, come si dice con un termine ricercato. Certo che all'Inter nel gestire pubblicamente queste cose, maestro, il caso Snyder insegna, cioè tutto il contrario di quanto si poteva o doveva fare, caro Mauro. Beh, la trattativa in sé già era complessa. Secondo me poi l'atmosfera complessiva, non parlo solo dell'Inter, parlo in generale del calcio italiano, poi del tirare la cinghia. Dice una questione mediatica, ma grazie, ce la regalate voi, noi la prendiamo la questione mediatica. Beh. Sul fatto che ci sia sempre una certa pervicacia nell'andare a stuzzicare, a inzigare negli affari di una squadra di Milano piuttosto che in un'altra, beh, si potrebbe discutere, fare dei ragionamenti sugli assetti proprietari dei media in Italia, ma questo ci porterebbe molto lontano. Sì, dove va il calcio, Marco Belinazzo? Domandone, in particolare quello italiano. Bene, una bella domanda. In realtà negli ultimi mesi è accaduto un fatto molto peculiare, e cioè che mentre la Lega di Serie A è in qualche modo rimasta impantanata nelle proprie discussioni su come ripartire questa torta dei diritti TV, poi si è trovato un accordo, in realtà una torta che è sempre quella e che sarà sempre quella per i prossimi 3 anni, e fortuna che è stato chiuso in tempi non sospetti un accordo da 1 miliardo all'anno, però la Serie è rimasta lì. Viceversa c'è stato e c'è tuttora un grande fermento nelle leghe inferiori, vuoi perché la crisi economica ha creato proprio un default di massa di molte squadre che sono scomparse perché per assenza proprio di sostanze, ma c'è stato appunto da parte di Macalli e Ghirelli in Lega Pro e da parte di Abbodi in Serie B il tentativo di far vedere un futuro a questo calcio italiano dissestato, introducendo, prima ancora che lo faccia poi la UEFA, dei criteri economici molto stringenti, molto più stringenti. Non si parla proprio di vera e propria salary cap, ma più o meno ci siamo. Per esempio, dal prossimo campionato in Lega Pro le squadre dovranno garantire con delle fideiussioni non solo l'iscrizione ma anche il monte salari, e se sforano, cioè se non pagano gli stipendi come normalmente avviene, la Lega potrà non solo bloccare i premi che attraverso la federazione e per conto della federazione distribuisce, ma addirittura per esempio se si comprano giocatori fuori budget non tesserarli, quindi quei giocatori non possono giocare. Se voi sono piccole riforme, ma in un sistema paludato come quello del calcio italiano possono come dire far vedere un minimo di luce in fondo al tunnel. Sì, noi siamo malati di gigantismo come al solito, abbiamo il maggior numero di parlamentari al mondo, abbiamo anche il maggior numero di squadre professionistiche dell'universo, no? Dove non sta scritto da nessuna parte che ci deve essere questo gigantismo, questa proliferazione di squadre professionistiche. Ci fermiamo per primo stop per il traffico, ma subito dopo torniamo con Mauro Meazza e Marco Belinazzo del Sole 24 Ore. Tutti convocati. Mauro Meazza, tu prima facevi dell'ironia sottile sul Milan, però almeno loro sono bravi nel gestire i casi spinosi o scottanti. Poi, periodo in cui Berlusconi aveva non tantissimo da fare, ogni giorno a Milanello planavi in elicottero e con poteri taumaturgici, mi risulta, con no? Poteri ampiamente taumaturgici, no, però insomma sono di casini ne hanno anche loro, sono più bravi ad occultarli sotto il tappeto. Beh, insomma, i giocatori mandati in tribuna ci sono stati anche dall'altra parte del naviglio, come si dice qua. Sì. E diciamo che tutte le volte che si è potuto, i giornali, noi giornalisti giustamente ci siamo andati a nozze, ma ci mancherebbe altro, se non si spettegola, se non si fa un po' di gossip, di dietrologia anche sulle vicende calcistiche, allora davvero avremmo finito qualsiasi forma, sì, di divertimento, o comunque ne avremmo già consumate parecchie. E è vero che spesso e volentieri, forse anche, chissà, la personalità del presidente Moratti stesso, che quasi per troppa generosità nei confronti dei cronisti si concede alla battuta, alla battuta rubata, su cui poi naturalmente si costruiscono paginate intere. Certo, cosa che quando c'era Sua Maestà do Portugage non accadeva. Sì, no, possiamo dire il nome di José Mourinho, se vuoi io mi alzo anche in piedi per meglio celebrare colui che, come dire, ci ha riportato in cima al mondo. E vi ha messo in prigione scappando subito dopo, portandosi le chiavi, costringendo, nessuno costringe nessuno, però inducendo Moratti a firmare contratti milionari a questo e a quell'altro, compreso quello di Snyder. Questo è vero, noi siamo usciti alla fine pagando un prezzo molto elevato, e stiamo tuttora pagando un prezzo molto elevato dal triplete, perché ci sono stati questi rinnovi generosi, e poi questi rinnovi poi vanno gestiti, sono complicati, specialmente se vuoi fare del rinnovamento, vuoi magari inserire dei giocatori giovani provenienti dal vivaio, dalla primavera, da altre squadre, quindi fatalmente con ingaggi più bassi, non solo per i problemi che diceva prima Marco, cioè immaginare dei salary cap, però anche solo e soltanto per dare un po' d'ordine, per evitare delle disarmonie troppo evidenti nello spogliatoio, diventa complicato poi uscire da contratti faraonici che sono stati siglati in tutt'altri tempi. Sì, poi errore storico, scusate, credo che sia stato quello appunto di essere poi troppo innamorato dell'Inter, di quella squadra, e di non aver ceduto in quel momento, cioè subito dopo la vittoria, tutta una serie di giocatori che in quel momento avrebbero davvero rappresentato il futuro dell'Inter, nel senso che le ricche plusvalenze che si potevano ottenere sui vari Milito, che sul campo ha chiesto la cessione, cosa mai accaduta dopo la vittoria della Champions League, non l'avevano ancora alzata dal tavolino, E appunto tralascio di commentare insomma la mancanza di sensibilità rispetto, allora, al momento. A parte che il nostro numero 22, che è 22 anche perché quel giorno era il 22 maggio, perché lui segnò due gol, perché segnò in tutte e tre le finali di tutto il triplete, sì, in quel momento lì davvero secondo me era incedibile. Diverso il discorso del terzino, si può dire ancora terzino, Carlo? Io sì, non so, vale, se vale, lo vale. Dice Stramaccioni, ogni tanto Stramaccioni dice poi dice parliamo terzino, anche di lui. E quindi, come dice Strama, il nostro terzino, forse visto che già aveva il mal di pancia, come ha detto anche un giocatore passato per il Milan e per l'Inter, visto che già aveva il mal di pancia, si poteva pure accompagnare alla porta e augurargli miglior fortuna e anche splendido contratto a spese altrui. Questo sì. C'era qualche giocatore di troppo, insomma, e non era in quel momento neppure una bandiera così irrinunciabile come poteva essere il Principe. Sì, anche se il numero 22 è indimenticabile in quel giorno in cui disse «Bah, ho tante offerte, prima ancora di alzare la Coppa», perché penso sia un record assoluto ed imbattibile nella difetto di comunicazione. Sì, un difetto di comunicazione e anche, come dire, una mancanza di rispetto per i sacrifici. Ma sai, ma quel giorno lì ne sono successe, Mourinho aveva la macchina del Real. In realtà si era capito benissimo alla fine della partita che appunto José se ne sarebbe andato, e lì si scatena come sempre quando c'è la persona carismatica, questo in qualsiasi gruppo, non solo nel calcio, una persona carismatica che viene meno, che si allontana, che cambia posizione, e tutti quelli che in qualche modo facevano riferimento a lui o si affidavano molto a lui, beh, è un po' come se suonasse Liberi Tutti. Certo, ed è quello più o meno che è accaduto a noi. Questo non cancella le imprese sportive, però nonostante tu stia cercando sistematicamente di denigrarle, però purtroppo mi spiace per te. No, però si parla appunto di errore storico, perché costruire quella squadra ha significato fare rossi di bilancio che sono partiti da 250 milioni, poi si sono un po' abbassati a 150, ma appunto Moratti ha speso in pochi anni almeno 1 miliardo di euro. Ma per far venire i brividi a Mauro Meazza, come è messa adesso l'Inter? Beh, devo dire che è stata, come dire, avviata questa campagna di abbassamento del monte ingaggi. Molti senatori tardivamente, ma sono stati accompagnati alla porta, qualcuno in maniera più elegante, qualcun altro in maniera più rude, ai limiti della legalità. In ogni caso, temevo dicessi mobbing, siccome... Beh, in realtà, sai, questi poveri calciatori, tra virgolette, sono, come sai, lavoratori subordinati, no? Che sono soggetti a determinate gerarchie. Ricordate che tu lavori a norme e tributi, non è che possiamo citare il mobbing. Quindi, insomma, il caso, Sole 24 Ore, capisco la fede calcistica, ma il Sole 24 anche Ore, se ci sono, sai, Mauro, molti giuslavoristi che si sono scatenati appunto nell'interpretare il caso Snyder, e molti anche, insomma, seri, hanno parlato effettivamente di mobbing. Io credo che, al di là appunto di questo caso, per guardare le cose più in generale, l'Inter abbia fatto bene, o stia facendo bene nel tagliare gli ingaggi, nell'investire sui giovani, perché il calcio italiano non ha altre prospettive se non quelle. Dovrà costruire uno stadio, cinesi o non cinesi, perché evidentemente dallo stadio Meazza può trarre ricavi una sola squadra in termini moderni, e lì il Milan ha messo una sorta di ipoteca. Il cammino che è stato intrapreso è positivo, ma evidentemente passare da meno 80 dell'ultimo bilancio a un più 20, un più 30, che, come dire, l'attivo che nel prossimo bilancio 2013 dovrebbe fare per compensare questa perdita e quindi essere in linea assolutamente con i parametri del fair play, è complicato. Diventa fondamentale arrivare almeno al secondo posto, comunque al terzo posto, e poi superare i playoff e accedere alla Champions, perché soltanto i soldi della Champions oggi possono garantire a una squadra un minimo di forza competitiva in Europa, altrimenti il campionato italiano è destinato davvero a essere la Serie B dell'Europa, e a guardare la Premier e a guardare la diciamo anche la Bundesliga sempre più da lontano. Un dato in questo senso è molto significativo: la Premier League quest'estate ha chiuso un nuovo contratto con le TV, quindi diritti TV venduti non solo per la Gran Bretagna ma anche per l'estero, che è stato caratterizzato da un più 70% rispetto al precedente contratto. Allora, mentre noi incasseremo 1 miliardo all'anno, la Serie A, non noi purtroppo non incassiamo, la Serie A incasserà, il calcio italiano di vertice, 1 miliardo all'anno, la Premier League incasserà oltre 3,5 miliardi di euro all'anno. Questo significa, tra l'altro, distribuiti in maniera ancora più meritocratica rispetto ai criteri italiani, perché spesso si dice legge Melandri è colpa, no, in Gran Bretagna c'è ancora un criterio più meritocratico. Questo significa che squadre come, non so, il West Ham, il Sunderland, quindi di medio-bassa classifica, vanno un fatturato che si avvicinerà a quello di Juve, Milan e Inter. Questo scenario è da brividi, i vertici del calcio italiano lo sanno, però, come dicevo all'inizio, continuano a litigare per 1 miliardo e non cercano invece di ottimizzare, di valorizzare le altre fonti di reddito. Qualcuno lo sta facendo e gli altri, insomma, forse si accontentano di quello che ci è soltanto. Io vorrei fare una domanda a Bellinazzo, a rischio di dire una cosa che magari è stranota in questa trasmissione. Ma se la Premier League può giovarsi di questo tipo di contratti, ci sono però altre situazioni, penso ad esempio alle squadre di vertice spagnole, che non mi paiono economicamente molto rose. Allora, questo benedetto fair play, su cui per carità siamo tutti d'accordo, mi sembra anche giusto che con l'aria che tira il calcio facendo tutte per tutti i distinguo che vogliamo, però dia anche un messaggio di sobrietà, visto che non sono proprio periodi di vacche grasse. Mi chiedo, ma perché allora altre squadre possono comunque restare fuori dalla grazia del cielo quanto a conti, e invece noi italiani stiamo tirando la cinghia in questo modo? Il calcio spagnolo è un calcio particolare, che bisognerebbe distinguerlo. C'è il campionato o il calcio di vertice, che significa Real e Barcellona, sì. E poi c'è il resto delle squadre. Real e Barcellona, a differenza di quel che accade in Italia o in Gran Bretagna o in Germania, vendono individualmente i diritti TV, ma sono riuscite in questi anni, proprio perché hanno costruito delle squadre riconoscibili in tutto il mondo, dei fatturati che sono il triplo di quelli delle squadre italiane. Cioè il Barcellona fattura oltre 450 milioni, il Real Madrid è arrivato a 512 nell'ultimo bilancio, e quindi anche se pagano 200 milioni, 220 milioni di ingaggi, sono in attivo nei loro bilanci e quindi possono tranquillamente continuare a comprare giocatori. Anche l'indebitamento con le banche, sono usciti articoli nei mesi scorsi, uh-huh, insomma, che in realtà è molto limitato. Anche perché le banche spagnole hanno preso da poco un maxi prestito. Ecco. Però ecco, Real Madrid e Barcellona generano un cash flow talmente importante che non avevano bisogno di indebitarsi. Real Madrid ha fatto altre operazioni tipo immobiliare, mm-hmm, per diventare quello che è diventato, ma di fatto ora è autonomo e sufficiente, hanno una struttura corporativa e associativa che permette di sostentarla, e quindi vanno avanti. C'è poi tutto il resto del calcio spagnolo, che vive di briciole, che sì, vive, come dire, in situazioni di amministrazione controllata o di semi-default. Sì. Recentemente Carlos Slim ha comprato il Real Oviedo per pochi spiccioli, mi viene da dire, e quindi è una situazione in cui là veramente si risente del problema dell'indebitamento con le banche e di rapporti con il fisco molto complessi, ce l'hanno anche loro questi problemi, tant'è vero che il fisco spagnolo ha di fatto pignorato i diritti TV che queste altre società riescono a contrattare, e devono almeno la metà dei diritti TV arrivano direttamente alla Lega, alle banche, alla fisco, e quindi queste squadre non le vedono nemmeno. Poi, per cui c'è l'unico caso al mondo in cui arriva lo sceicco e non paga gli stipendi. Esattamente, sono sfortunati, sono come gli americani che sono arrivati in Italia, sì, a Roma, sì, e hanno prodotto un rosso maggiore di quello della gestione Sensi, ma ci dicono che il futuro sarà più roseo, e quindi noi aspettiamo i prossimi conti con fiducia. Intanto con grande fiducia ci fermiamo per un attimo, ma subito dopo torneremo insieme con Marco Belinazzo e Mauro Meazza, Il Sole 24 Ore. Tutti convocati. Cavani che si scatena, venite pure qua, venite! 60 milioni di euro ce li avete in tasca per comprarvi l'attaccante più forte al mondo! Se non ce l'avete, restate dove siete! Marco Belinazzo, ma tu, stratifoso del Napoli, senti le telecronache di Raffaele Auriem? Beh, sono un cult che imperdibili, io non guardo più, insomma, partite del Napoli che non abbiano la telecronaca del tifoso. Penso sia stata una delle migliori invenzioni della TV negli ultimi anni. Molti, sai, le criticano perché sono un po' più genuini e pensano che, insomma, la telecronaca debba essere asettica e tecnicamente, sì, inappuntabile. Però se tifi per una squadra, sentire il tuo telecronista che gioisce o soffre, perché è bello anche quando si soffre, penso sia impagabile. Raffaele Auriem, Macigliano, c'è qualcuno che ha sti 60 milioni per venirsi a prendere Cavani? Innanzitutto 60 milioni di ringraziamenti a Marco per le belle parole che ho ascoltato in diretta, e ti ringrazio soprattutto per la difesa di questa, chiamiamola categoria, che è di appassionati tifosi, perché io poi sfido tanti giornalisti che sono presenti in tribuna stampa, no? Che magari scrivono, mettergli un microfono sotto a loro insaputa durante la partita, sarebbero più tifosi di me, ne sono straconvinto, quindi sì, sono quei 90 minuti che ci esaltano per poi tornare ad essere ovviamente nell'alveo della nostra professione. Poi senza dimenticare quel caso di Conte che passò, sì, quel giorno, sì, in sala stampa e beccò i due tifosi Granata che esultavano, esatto, al gol del Chelsea, o no? Succede, dai, succede. Purtroppo bisognerebbe, secondo me, fare sempre il tifo per la propria squadra e non farlo contro l'altra. Però è chiaro che può capitare anche questo. Raffaele, comunque. Ciao, sono Mauro Meazza, ciao, complimenti. Sì. Volevo chiederti, grazie, ma io anch'io apprezzo molto le telecronache da tifoso, non le tue però, come forse tradisce anche il mio cognome, e... Però mi viene sempre un dubbio, cioè che poi si contribuisca ad alzare i toni, siccome il calcio li alza fin troppo facilmente negli stadi e fuori, tu questo scrupolo ce l'hai mai quando vai in onda? No, non ho nessuno scrupolo in tal senso, perché io sono straconvinto, già che ho proprio una testimonianza diretta, che il mio modo di trasmettere le telecronache esalti la passione per il calcio. Non a caso i tifosi che ho in numero maggiore sono i bambini, perché loro entrano in questo immaginario che gli creo di favola, di fantasia, in cui loro pensano che davvero questo gioco sia il più bello al mondo. Poi crescono, hanno a che fare con determinati calciatori o certi arbitri e si accorgono che l'imbroglio è lì, non certamente in chi trasmette con passione una partita. Ecco, forse questo sarebbe il nostro errore, quello di credere che tante volte ciò che succede in campo sia sempre tutto bene. Invece poi abbiamo scoperto non tutte le partite nelle quali magari noi ci scolavamo poi erano reali al 100%. Ovviamente non mi riferisco al Napoli, ma a tutto ciò che riguarda il calcio scommesse, di cui tristemente abbiamo avuto notizia. E qui tu vuoi che io rinnovelli disperato dolor che il cor mi preme, già pur pensando pria che io ne favelli. Scusa Carlo per la citazione, ma ci stava, perché... A proposito di poesia, appunto in queste telecronache c'è tutto un mondo, come ricordava giustamente Raffaele, legato per esempio ai soprannomi dei calciatori, a una serie di, come dire, legami poi con la tradizione partenopea, oppure no, però appunto si entra in un mondo a parte che dura 90 minuti, esatto, e che ti regala sofferenza in ogni caso, alla fine gioia oppure invece tristezza infinita, come quando per esempio un tuo difensore, difensore della tua squadra, al 92esimo lancia il pallone all'indietro. Non me la riaprire. Stiamo parlando di un episodio che tranquillamente era evitabile, non è che ti parlo del palo colpito, errore del portiere su un colpo di testa o il fischio dell'arbitro sbagliato. Lì è stato un errore gratuito, ecco. E sapere che c'è con te qualcuno che soffre insieme a te. Condivide, anche perché ti fa apparire, come dire, meno folle magari agli occhi di tua moglie che è lì vicino, o dei tuoi parenti o che non tifano per quella squadra, e quindi c'è questa condivisione che rende tutto meno amaro. Nel salutare Raffaele Auriemma, adesso gli facciamo sanguinare il cuore, perché io sono convinto che qualcuno arriverà, non so se con 60 milioni o con un'altra cifra. Di più, perché tra un po' cambieranno la clausola, si arriverà a 85-90. Io sono convinto che a fine stagione se ne andrà. Io non lo so, sospetto che ci sia questo tacito accordo come ci fu con Lavezzi. Non mi pare che sia la stessa cosa, perché Lavezzi stava già reclamando da un po' di tempo, aveva grossi problemi a Napoli, anche di natura giudiziaria. Lui doveva andare via da Napoli e si è trovato questo giusto compromesso. Per Cavani invece il ragazzo guadagna bene come in un top club, segna tanto perché la squadra gioca per lui, è l'idolo incontrastato. Il Napoli lotta per lo scudetto, tornerà in Champions, lotta per l'Europa League, Coppa Italia. Cavani oggi sta benissimo a Napoli. Poi è chiaro, se arriva lo sceicco pazzo che a fine stagione dà 100 milioni al Napoli e altri 100 a lui, dobbiamo dire va bene, hai vinto tu, complimenti, prenditi Cavani. Grazie Raffaele, buon lavoro. Grazie, lo sceicco pazzo, ce ne sono di sceicchi pazzi. Ce ne sono, speriamo che stiano lontano da Napoli, anche se anch'io insomma ho questa impressione che prima o poi alcuni gioielli potrebbero essere rubati da altre squadre, anche se però, come diceva prima Raffaele, c'è in Cavani, in Amsic per esempio, un attaccamento a Napoli, alla città che il Lavezzi a un certo punto non c'era più, sì, perché ci sono state vicende un po' oscure che l'hanno riguardato e che hanno spinto il suo entourage, insomma, a fargli prendere. Ragazzi, ma questo calcio degli sceicchi, stavamo parlando di fair play finanziario, di poi anche Moratti, dall'est europeo, appunto, sceicchi, roba per il calcio è ormai di alto livello, è cosa per sceicchi e per russi che se ne impippano del fair play finanziario di cui Moratti invece ha fatto e sta facendo da anni una bandiera. Sì, beh, questo è un po', se vuoi, il meccanismo da cui siamo partiti. Prima ragionavamo di cinesi che si sono fatti vivi a Milano, non abbiamo capito però se erano venuti quelli con i soldi o quelli senza. Sì. E questa era la distinzione più importante. E è chiaro che ci sono delle aree del mondo, beate loro, dove la crisi non è arrivata in un modo così pesante, dove non ci sono gli esiti anche appunto fastidiosi, dolorosi, che sono venuti dalla crisi, e quindi queste persone si ritengono assolutamente in diritto di poter staccare assegni miliardari, cifre impressionanti. Sto pensando alla cessione di Eto'o per quanto riguarda la mia squadra, sì. Era la classica offerta, per dirla con Raffaele, come fai a rifiutare se si fa avanti un signore e ti dà milioni, parlando in euro, per un calciatore, per quanto bravissimo, e che per carità da solo vale tre attaccanti probabilmente, ma è difficile anche trattenerlo se la concorrenza è così fuori mercato e così spropositata. Come la mettiamo? Beh, io penso che stiano accadendo due cose fondamentalmente. Allora, in Italia non bisogna fare confusione tra la causa e l'effetto. Cioè, il fair play finanziario arriva dopo la crisi e dopo che alcune realtà, mi riferisco al gruppo Fininvest, ma anche al gruppo Saras, hanno smesso di pompare utili e quindi di consentire a Berlusconi e a Moratti i grandi investimenti. E quindi ci sarebbe stato comunque un ridimensionamento. Se questo viene fatto però in ottica fair play finanziario, e quindi attenendosi a queste regole, anticipandone un po' l'entrata in vigore, vedremo appunto dal 2014 come sarà applicato il fair play finanziario. C'è stato necessario applicarlo in Italia, ma è stato anche utile per Berlusconi e Moratti, che hanno avuto un alibi, insomma, rispetto a una mancanza di investimenti che sarebbe stata inevitabile. In Europa sta accadendo un'altra cosa, in particolare nella UEFA. Platini ha fatto di questa battaglia il suo cavallo di Troia, diciamo, per entrare nella FIFA e superare l'era Blatter, e quindi sono convinto che alla fine tenterà e riuscirà ad applicarlo. C'è però chi sostiene negli ambienti UEFA che senza alcuni soldi, senza alcuni investimenti importanti, quelli che arrivano dall'Arabia o dalla Russia, il calcio europeo nel suo insieme sarebbe in crisi. E certo. E quindi, come dire, sta sponsorizzando un'applicazione meno rigida dei fair play finanziari. Questo mi induce a credere che ci saranno sicuramente sanzioni tra due anni, ma saranno, come dire, applicate con una certa flessibilità, e quindi due grandi indiziati, che poi sono il Manchester City e il Paris Saint-Germain, saranno sanzionati, ma non credo che saranno esclusi dalle competizioni europee. Sì, anche perché il professor Meazza mi insegni che se c'è un sistema che sta andando a fondo e arrivano quelli e pompano il grano nel sistema, è gioco di tutti, no? È molto difficile metterli alla porta, e poi stanno costruendo delle rose obiettivamente di richiamo, solo i nomi che vanno che costruiscono con queste rose, no? Con questi ingaggi milionari. Questi grandi nomi che strappano alle squadre un po' in tutta Europa, alla fine uno ha anche la curiosità di vederli giocare, pur non essendo tifoso. Sì, perché la FIA che giocano in quattro, cosa fanno gli Harlem Globetrotters? Però se ti ricordi, qualche anno fa si ragionava di un campionato europeo, perché si diceva in fondo il sistema non può mantenersi con dei campionati nazionali in cui dobbiamo gioco forza fare spazio sia alla grande squadra, il Real, il Barcellona, ma anche a squadre minori nel senso di minore richiamo, e alla fine questi signori lo stanno creando un po' questo campionato europeo. Sì, è un campionato tra l'altro non così futuribile o ipotetico, nel senso che la UEFA ne ha già discusso e nelle prossime riunioni a Nyon se ne discuterà ancora in maniera concreta, e cioè quella di creare una sorta di Super Champions League, magari abbandonando l'Europa League, perché ci si è resi conto effettivamente che un torneo con squadre di richiamo sarebbe appunto un volano incredibile per la stessa UEFA. Consideriamo che soltanto l'ultima edizione della Champions League ha portato nelle casse della UEFA, come fatturato tra diritti TV e marketing, 1,5 miliardi di euro. 900 poi saranno distribuiti alle squadre, ma 400 saranno intascate dalla UEFA. Marco, allora ci fermiamo un attimo, abbiamo l'ultimo appuntamento con il traffico e poi parliamo di soldi, di questi soldi e di passione, la vostra. Tutti convocati. Allora, con Marco Berinazzi e Mauro Meazza stavamo parlando di soldi, poi però vorrei chiudere parlando della vostra passione. Campionato europeo, la Champions League vale un mucchio di soldi, l'Europa League vale molto meno. Quali sono i numeri? Beh, un esempio concreto, poi per far capire ai tifosi quello che significa, no? A volte si dice che le squadre italiane snobbano l'Europa League, vorrebbero fare tutte la Champions. Per quale motivo? Se consideriamo solo i premi di questa fase a gironi garantiti dalla Champions League e dall'Europa League, capiamo la differenza. Allora, la Juve e il Milan hanno incassato soltanto in questa prima fase, soltanto per risultati sul campo, rispettivamente 16 e 15 milioni di euro. Poi ci sarà il market pool, ma quello viene stabilito dopo, e ovviamente più vanno avanti più soldi avranno. Quindi facciamo 25 totali. Beh, no, potrebbero 26. Essere molti di più, tieni conto. Ma col market pool. Allora, praticamente sì, si può arrivare a circa 30 milioni, qualcosa in più, perché c'è stato un incremento, insomma, di ricavi Champions, ma evidentemente è molto ricca la Champions, 16 milioni, insomma, considerando gli attuali budget delle squadre italiane, sono per esempio quasi il 10 o poco meno il 10% del fatturato. Sì. Le squadre che hanno fatto l'Europa League hanno incassato molto, ma molto meno. Il Napoli, per esempio, appena 2 milioni, la Lazio 2 milioni e 6 perché ha vinto il girone, sì. L'Inter 2 milioni e 3 e l'Udinese ha incassato 3 milioni e 7 pur essendo diciamo stata eliminata, perché ha potuto godere appunto del premio Champions, perché avendo avuto questa doppia eliminazione, certo, è riuscita insomma a lucrare anche più sull'eliminazione nonostante eliminata, perché era iscritta alla Champions inizialmente. Beh, perché non se la sono presa più di tanto voi con 2 milioni e 3 che hanno Mauro Meazza ci fate poco, eh? No, l'Inter no. Ma non lo so, perché poi vedo che il dottor Stramaccioni invece è stato fin qui molto abile, tutto sommato. Ecco, cosa ci trovi in Stramaccioni? Ma un murignano come te, cosa ci trovi in Stramaccioni? A me sembra un po' murignesco come atteggiamenti, eh? Permaloso, non so se ci è o ci fa, però... Ma a me piace, devo dirti, il suo modo di stare, di essere conscio del suo limite, che è l'età, ed è anche la sua forza. Sì. Lui è arrivato molto presto, qualcuno dice troppo presto, ha una panchina molto importante con giocatori decisamente più difficili da trattare, con cui relazionarsi rispetto a quelli di una primavera, per quanto dell'Inter o della Roma. E però vedo che lui interpreta questo suo essere giovane con una notevole tranquillità, in qualche modo, cioè non sembra tipo da farsi sorpassare o surclassare anche dal senatore, o almeno fin qui. Però un po' permaloso lo è, dai, perché quando... Ma questo dico... secondo me è il suo bello, cioè ma io sì, non, che, non mica... io che amerò sempre Giuseppe Mourinho, come ti ho già detto diverse volte, quando Strama perde un po' le staffe e si arrabbia con i colleghi sportivi, tutto sommato tifo per lui, perché sì, tu hai detto parliamo di soldi, no, ma anche di passione. A me mi appassiona quando dice certo, non ci devono dare la provinciale, così dico bravo, sì, così fatti sentire come il grande José. Mandali a quel paese. Abbiamo bisogno come il pane di personaggi, anche se sono magari battaglie un po' pretestuose, però abbiamo bisogno. Finora è stato abbastanza pacato, devo dire, cioè ha alzato i toni qua e là, ma quasi forse più per dare qualche occasione di titolo, no? Sì. ai giornali. Io eccetera. Continuo a pensare che quella storia della spensieratezza della partita con la Juventus fosse sacrosanta. È vero, l'Inter ha potuto giocare quella partita in modo spensierato, non ho trovato nulla di peccaminoso in quelle parole di Marotta. Sì, cioè, lì secondo me o gli è stata riferita male la frase, oppure c'era qualche cosa che non era nella frase, ma è stato detto altrove. e per quello lui si è un po', come dire, alterato. Di per sé non era, è vero, cioè l'Inter è andata lì con un notevole coraggio, ma lui stesso l'aveva detto dopo quella partita, aveva detto che quando appunto aveva spiegato al presidente voglio giocare con i tre attaccanti a Torino, aveva pensato mo me caccia, e invece è stata una scommessa che gli è andata bene, quindi lui stesso era convinto di essere stato, se non spensierato, perlomeno sfacciato. Sfacciato, coraggioso senz'altro. Lamentino Mazzarri invece? Beh, che mi toccare... dice no, che allora. Gna fa più, che vuole a fine stagione, sì, allora, aver, si tra l'altro fermare. Aver detto questo stressato. prima di Juventus-Napoli mi è sembrato una defiance che un allenatore così esperto invece avrebbe dovuto evitare. Insomma. Lui poi ha sostenuto che ha detto quella cosa perché gli è stato chiesto in conferenza stampa, però non mi risulta che gli allenatori siano obbligati a rispondere a tutte le domande che vengono poste. A me piace molto Mazzarri da sempre, anche se come tutti i tifosi ho tante lamentele. Se avessi la possibilità, diciamo, di lavorare a stretto contatto con Mazzarri, gliene direi molte, insomma, ma come tutti i tifosi, insomma, ho le mie, come lui ha le sue fissazioni, io le mie sui giocatori da impiegare, da non impiegare. Credo che però lui abbia fatto molto per Napoli, così come ha fatto De Laurentiis nel costruire negli anni un progetto, il fatto che a Napoli ci sia un progetto lungo qualche anno sembra un miracolo, considerando la precarietà in cui vive la città. Infatti, Marco, questo mi sembra il tratto più determinante dell'esperienza di Mazzarri, comunque poi vada certo. nel nuovo anno, ma lui ha dato una prospettiva pluriannuale a una società che era più abituata a confrontarsi sul breve termine. Sì, c'era... questo è merito suo, non solo merito suo naturalmente dei giocatori della società, c'era un progetto di ma lui crescita, gli ha dato sostanza. C'era un progetto di crescita che era quello della società e lui appunto ha dato una concretezza a questo progetto. Che in ogni caso, insomma, ha portato il Napoli dal fallimento dalla Serie C ai vertici italiani, se vuoi per un impoverimento generale che c'è stato nelle altre squadre, ma in ogni caso il Napoli è lì. L'anno scorso c'è stata una bella Champions, in fondo abbiamo quasi eliminato i campioni d'Europa, se maggio a un certo punto sul 3-1 no, ma noi siamo così in napoletani, siamo un po' nostalgici. Io quel gol di maggio sbagliato sulla linea, quel 4-1 possibile, poi siamo usciti per il 4-1, insomma tutti se lo ricordano. Senti, in ogni caso l'augurio che ci facciamo noi, insomma, che Mazzarri, abbiamo ancora 5 minuti proprio per parlare di passione sanguigna. Tu hai scritto un bel libro sul Napoli, cosa c'è dentro? Ci sono i tuoi ricordi, da dove parti? Qual è il tuo Napoli? Beh, parte dal fatto che io, quando è arrivato Maradona a Napoli, sono impazzito, avevo 10 anni, e ho cercato assolutamente di imporre a mio padre di regalarmi un abbonamento. Mio padre ha resistito il primo anno, ha resistito il secondo, per fortuna il terzo ha ceduto ed è stato quello buono, perché era appunto la stagione 86-87, e quindi io ho visto l'anno del primo scudetto dalla curva B. L'unica condizione che mio padre mi aveva posto, perché era soltanto uno l'abbonamento, insomma, era quello di trovare qualcuno che mi accompagnasse allo stadio, ma solo nel mio palazzo c'erano 20 abbonati a Napoli, quindi non era difficile. Un'impresa assolutamente non ardua. E da quella, come dire, visione reale di quello che è accaduto, poi è nata la voglia anche di scrivere questo libro, il Napoli e di Maradona, Careca. Quindi questo è il tuo Napoli. Questo è il mio Napoli, spero ce ne sia un altro. Quello futuro, quello di questi anni, che comunque ha rappresentato un riscatto per la città, così come il Napoli di Maradona ha rappresentato un momento di ritrovato orgoglio per una città che veniva dal terremoto, insomma, da tante tragedie che non è caso qui di ricordare. Questo è il calcio, questa è la passione, e non per essere monotematico, no? Non parlo solo di soldi, però il fatto che servano nuovi personaggi al calcio italiano, certo, che serva riaccendere la passione, significa anche riaccendere un interesse mediatico e quindi portare più soldi. Quindi non è tanto lontano il mondo economico da quello della passione per questo magnifico sport. No, ma Meazza quando scriverà un libro sull'Inter? Ma appena ne avrò il tempo. Io, qual è la tua Inter? In realtà ne ho diverse, perché ovviamente quella di Mourinho è quella indelebile. Sì. Però la mia prima Inter è l'Inter, immaginati, 69-70, 70-71. Erano anni in cui anche lì si usciva da un grandissimo ciclo, quello della grande Inter degli anni 60, quella squadra in realtà degli anni 70, in un periodo di calcio minore, asfittico, di poco denaro, anche di scandali, scandaletti finanziari, eccetera. Ecco, quel periodo lì è il periodo in cui io mi sono appassionato allo stadio, all'Inter e ad andare a vedere l'Inter allo stadio. Mi portò mio papà, che avevo 8 anni, e diciamo che... Quindi era l'Inter di Mazzola. Era l'Inter ancora di Mazzola, di Boninsegna, di Vieri in porta, e poi Bordon, il ragazzo che fece il miracolo, no, nella ripetizione della partita col Borussia a Berlino. E questa era la mia Inter. Però mi agganciavo al discorso di Marco, perché lui dice... È arrivato Maradona, io ho chiesto a mio padre l'abbonamento, quello che fanno appunto i grandi nomi. Maradona era stellare, era immenso. Io, da amante dello stadio, adoravo vedere giocare Maradona. Purtroppo non giocava nell'Inter. No, ma io Maradona andavo a vederlo appena potevo in tutti gli stadi, insomma, raggiungibili, ma per vedere Maradona. Però mi chiedo se tutta questa attenzione sulla TV, peraltro ineliminabile, e quindi poi la spalmatura degli incontri e così via, non abbia tolto, lo so che faccio la figura del romantico nel dire questa cosa, però non abbia un po' compromesso la nostra passione, in qualche modo dovendola incanalare in altre forme, quindi la pay TV, quindi le tessere per gli abbonamenti, eccetera, le partite a mezzogiorno, le partite alle 6 di sera, le partite al lunedì. Insomma, sì, è tutto bello, per carità, possiamo vedere calcio in qualsiasi momento, questo è sicuramente positivo, ma forse era più facile in qualche modo sostenere, alimentare la passione vera per questi grandi personaggi, per questi giocatori immensi come era Maradona, quando era tutto più ordinato, li vedevi un po' di meno, e quando li vedevi un po' meno e dovevi andare, soprattutto il fatto di dover andare allo stadio, cosa che mi sembra, Marco mi può confortare, mi sembra stia passando un po' di moda il fatto di andare allo stadio. Fanno di tutto perché noi non ci andiamo. Esatto, bravissimo. Un giorno facciamo anche una puntata su questo, perché io sconsiglio sempre di lo stadio, perché gli stadi italiani sono dei letamai, perché è difficile entrare, perché la tessera del tifoso, perché i costi, perché un sacco di ragioni. Intanto vi ringrazio, vi ho spernacchiati a dovere, adesso tornate a fare i giornalisti seri, io invece continuerò a fare il clown da questi microfoni. Secondo me sei serissimo anche su questo. Comunque grazie a te, grazie a tutti gli ascoltatori. Grazie Mauro Meazza, grazie a Marco Belinazzo. Appuntamento a domani alle 2 con tutti i convocati.